Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, questa volta parliamo ancora in qualche modo di statistiche. Voi avete fatto un'indagine che è andata un po' a vedere com'è la forbice tra ricchi e poveri. Ne avevamo già parlato qualche tempo fa, ma evidentemente è il caso di riparlarne. Sì Francesco, è il caso di riparlarne perché in questi giorni stiamo assistendo a tante promesse e sentiamo come con troppa facilità tutti promettono soluzioni al tocco della bacchetta magica, in realtà i dati continuano a essere inesorabili. Non lo diciamo solo noi, lo dice anche l'OCSE, proprio per dare peso a quello che è una forbice che in questi anni si sta sempre più aprendo in favore sia dei ricchi e purtroppo dei meno abbienti, che continua sempre più ad allontanarsi rispetto a quelle che è una classe sociale di nicchia. Diamo un dato per rendere più significativo quello che vogliamo dire: oggi l'1% della popolazione in Italia detiene il 14,3% di tutta la ricchezza nazionale netta e addirittura il 20% detiene il 61% della ricchezza, quindi capiamo come tutta questa ricchezza del nostro paese in realtà è in mano ovviamente a poche persone. Quindi Carlo, fammi capire, l'1% ha il 14% della ricchezza, il 20% ha l'altro 60, 60 più 14 fa 74, quindi il 21% ha il 74% della ricchezza e tutto il resto è in mano a pochi altri. Parliamo di ricchezza, parliamo di povertà, poi c'è il rimanente 20% che si colloca al di sotto di queste fasce ricche, diciamo che siamo sulla fascia media, però certamente dobbiamo renderci conto come la fascia più ricca è nettamente più squilibrata a favore del vertice. Quindi cosa vuol dire questo? Che sostanzialmente la ricchezza del nostro paese è in mano veramente a un numero molto limitato di persone e oltre il 60% delle persone sostanzialmente sono quelle che si trovano in difficoltà, che fa fatica ad arrivare a fine mese, è quella che sostanzialmente poi qualche giorno fa abbiamo sentito, magari c'hanno anche dei figli, perché oggi abbiamo anche il problema dei disoccupati che hanno famiglia, non solo di chi perde il lavoro ed è fine a se stesso, per cui una situazione che certamente bisogna dare un giusto significato e un giusto peso e soprattutto una giusta dimensione e bisogna dire come in questi 5 anni per i meno abbienti il reddito disponibile è diminuito del 4%, quindi c'è anche un fenomeno di regressione che porta quindi a una contrazione e per cui c'è un divario che in tutto questo si fa sempre più pesante e quindi va sempre più a favore dei più abbienti a discapito di quei 60% che alla fine faticano di più. È per me triste, no? Perché quando parliamo di ricchi e poveri mi verrebbe in mente, parlando radiofonicamente, solo il gruppo famoso che cantava 30 anni, 40 anni fa e continua a farlo. Invece ormai ricchi e poveri è un po' la situazione del nostro paese, con molti poveri e pochi ricchi, pochi ma tanto ricchi, ecco. Sì, purtroppo questa crisi ha ampliato questa separazione, ha creato proprio una divisione sempre più netta e quindi certamente sono dei dati molto importanti perché appunto si arriva a dare proprio un peso giusto a quello che è il divario ed è un divario enorme. Quando a volte si sentono chi amministra il paese, chi fa politica, quelli che possono essere degli interventi rivolti a una classe sociale rispetto ad un'altra, io credo che bisogna cominciare a partire da questi dati. Oggi dobbiamo smettere di continuare ad adottare quel sistema, è meglio togliere poco a tanti che tanto a pochi, ma riconsiderare tutto quello che è un sistema di distribuzione della ricchezza e anche e soprattutto di equità fiscale che certe categorie devono avere rispetto alle altre. Speriamo bene. Intanto, a proposito di distribuzione, ho visto proprio dal sito dell'Adico, io non lo sapevo, che da lunedì 1 giugno scatta la mini rivoluzione che farà arrivare le pensioni tutte il primo del mese, insomma, no? Sì, anche questa è una novità che è fatto bene ad annunciare, perché ci sono molte persone che magari si troveranno spiazzate, abituate ad andare nei giorni prestabiliti, ci sarà un unico giorno. Questa, a nostro avviso, può essere anche una novità importante se è incentrata a creare ordine e non code. Ci auguriamo che tutto fili liscio e che, come tutte le cose all'italiana, quando comincia una novità si determinano i soliti ingorghi e i soliti disagi. Oltretutto, il primo è lunedì, è a cavallo tra la domenica e il 2 giugno, per cui gli scenari che si potranno annunciare certamente sono già dei presagi, ecco, di grandi congestioni agli sportelli. Non vorrei poi mercoledì 3 giugno tornare a lavorare e trovarmi un bel po' di notizie di rapinato mentre preleva la pensione, perché poi, se tutti vanno il 1 giugno, sarà una festa per chi vuole gabbare i pensionati, magari proprio fuori dalla banca, dall'ufficio postale, piuttosto che a casa. Ma speriamo bene, speriamo che, insomma, fili tutto liscio. Occhio quindi alla vostra pensione, e grazie. Con questa notizia chiudiamo l'appuntamento con l'Adico. Ricordo, associazionedifesaconsumatori.it il sito. Alla prossima settimana, non martedì 2 giugno perché è festa, ma ci ritroveremo giovedì 4 con un altro appuntamento con l'Adico. Grazie a Carlo Garofolini. Grazie a te, Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.